GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Partito l'allestimento dei seggi per il referendum di domani e lunedì, 932.000 gli aventi diritto al voto in regione. Lignano invasa dagli austriaci per Pentecoste, mette in campo oltre 100 agenti della polizia locale, misure più strette sugli orari e la vendita di alcolici e supera in serenità la notte della movida. Simulazione di un terremoto di magnitudo 5.8 tra Gorizia, Nova Gorizia e Schempeter-Vertoiba per l'esercitazione transfrontaliera di protezione civile, vigili del fuoco e sanitari. Perfezionata la cessione della U-Blox di Sgonico al fondo irlandese Trasna, assicurata la continuità produttiva per i 160 dipendenti. Romance di Isonzo si immerge nella sua storia longobarda con la rievocazione storica che quest'anno diventa ancora più autentica con l'inaugurazione del villaggio longobardo. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Cioco. Oggi silenzio elettorale sui quesiti referendari mentre si stanno allestendo i seggi per i 932.000 aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia. Dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì gli elettori di tutto il paese sono chiamati a votare per esprimersi sui referendum abrogativi al seggio presentando documento d'identità e tessera elettorale. Chi l'avesse persa può rivolgersi al proprio comune per un duplicato. Riceveremo 5 schede di colore diverso, ognuna con la descrizione della norma che potrebbe essere cancellata in tutto o in parte. Chi intende eliminarla dovrà votare sì accanto al quesito riportato sulla scheda. Chi vorrà invece mantenerla dovrà tracciare un segno sul no. Le schede verde, arancione, grigia e rossa riguardano temi sul lavoro e la cosiddetta legge Jobs Act. Quella gialla invece è la cittadinanza per i cittadini extracomunitari maggiorenni sul tempo minimo di residenza legale. Se vince il sì, si dimezza e la persona straniera che risiede legalmente in Italia senza interruzioni da almeno 5 anni può richiederla e eventualmente ottenerla. Come in tutti i referendum abrogativi, l'esito di ciascun quesito sarà valido soltanto se i votanti supereranno il 50% più uno degli aventi diritto. In Friuli Venezia Giulia sono poco meno di 1.932.600, con la maggioranza di donne 480.000 rispetto agli uomini circa 30.000 in meno. A livello territoriale, in provincia di Udine risiedono quasi il 45% degli elettori, ben 1.357 le sezioni che andranno scrutinate nel pomeriggio di lunedì, con i seggi che saranno allestiti invece già nella giornata di oggi. Al voto possono partecipare anche i residenti all'estero iscritti nei registri elettorali della regione di provenienza, in cui sono inclusi anche chi è temporaneamente fuori dall'Italia per motivi di studio e lavoro, come ad esempio i militari in missione. Hanno già votato per corrispondenza. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lignano ha superato indenne la notte della movida austriaca, nonostante qualche eccesso alcolico. Una prima notte che i responsabili dell'ordine pubblico giudicano come tutto sommato tranquilla a Lignano, in occasione della festività della Pentecoste che richiama ogni anno migliaia di giovani dall'Austria. 9 gli interventi degli operatori sanitari, in gran parte per intossicazione alcolica. I casi più gravi sono stati 3 codici gialli. 2 le denunce, un 38enne senegalese dedito alla vendita di oggetti in strada è accusato di rapina impropria per aver sottratto a un minorenne austriaco 50 euro dal portafoglio, anche con l'aiuto di alcuni spintoni. Un austriaco è stato invece denunciato per oltraggio pubblico ufficiale e ubriachezza molesta, si è ribellato alla richiesta di non riprendere una ragazza che veniva soccorsa dal personale sanitario in Piazza della Fontana. Lavoro anche per la polizia locale che ha levato 17 contravvenzioni per ubriachezza, detenzione di alcolici in contenitore di vetro, musica ad alto volume con casse, commercio abusivo e detenzione di sostanze stupefacenti. La polizia locale è intervenuta 5 volte per tafferugli. I bilanci delle notti della Pentecoste si confermano in miglioramento negli ultimi anni grazie a un incremento della presenza di agenti, compresi 2 austriaci e 2 di madrelingua tedesca in arrivo dall'Alto Adige. Per la prima volta impiegato anche l'esercito con l'operazione Strade Sicure. Via via più stringenti le regole con l'obiettivo di garantire un divertimento in sicurezza che non compromette il decoro della città e le vacanze di tutti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Bagnoli della Rosandra, sequestrata un'area di 1000 metri trasformata in discarica abusiva, i carabinieri di San Dolligo, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Udine, hanno fatto un'ispezione all'interno dell'area in uso a un cittadino bosniaco, dove hanno trovato un rudimentale prefabbricato presumibilmente utilizzato per lavori di meccanica. Nell'area è stato quindi rinvenuto un ingente quantitativo di parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti, nonché 2 targhe risultate da successivi accertamenti riconducibili a un un'autovettura oggetto di furto. I militari durante l'ispezione hanno scoperto anche una trentina di veicoli, alcuni privi di targhe identificative ed alcuni in evidente stato di abbandono. Al termine degli accertamenti, l'utilizzatore del fondo, risultato essere anche privo di autorizzazione per l'attività di autoriparazione, è stato deferito per ricettazione illecita, gestione di rifiuti. Nei suoi confronti è stata comminata una sanzione di 10.000 euro. L'intera area è stata sottoposta a sequestro penale, così come il materiale illecito contenuto e i veicoli presenti all'interno. Si è conclusa la cessione di Ublox e di Sgonico e dei suoi 160 dipendenti all'irlandese Trasna con la sigla dell'acquisizione da parte del fondo. Lo stabilimento di Sgonico, che continuerà a svolgere la sua attività di progettazione di prodotti per le telecomunicazioni e per l'internet delle cose, è stata rinominata Trasna Cellular Spa. L'attività dello stabilimento triestino con questo passaggio di proprietà si allarga anche alla vendita stessa dei prodotti, che consentirà di avere il controllo sull'intera filiera. Per USB, Trasna Cellular Spa può significare anche il punto di partenza per un ulteriore sviluppo del settore delle telecomunicazioni sul territorio, anche in sinergia con Adriatronics. L'esercitazione transfrontaliera della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Sanitari tra Gorizia, Nova Gorizia e Schempeter-Vertoiba, dove si sta simulando l'intervento dopo un sisma di magnitudo 5.8. Sentiamo. Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito l'area transfrontaliera goriziana. Bisogna mettere in moto e rendere operativa la macchina dei soccorsi. E questo è lo scenario dell'esercitazione Go In For Safety, una simulazione congiunta organizzata per testare la risposta a un'emergenza sismica. Il campo base è stato allestito presso l'aeroporto Duca d'Aosta, dove sono confluiti soccorritori e volontari della Protezione Civile italiana e slovena. Siamo al terzo giorno successivo al terremoto simulato. Tra le attività in corso, lo stress test del posto medico avanzato della Croce Rossa Italiana, un vero e proprio pronto soccorso da campo. La struttura, gestita da un team di 30 tra medici e infermieri, è in grado di trattare fino a 50 codici gialli e rossi in 72 ore. Presente anche una tendopoli con mensa attrezzata per accogliere fino a 500 persone, grazie al supporto delle due colonne mobili della Protezione Civile regionale. Il campo base ospita circa 300 operatori, con altre 200 persone impegnate in diversi scenari simulati, tra cui il puntellamento delle mura del castello e la messa in sicurezza del patrimonio storico della biblioteca del seminario. L'esercitazione prende spunto anche dall'esperienza maturata durante gli incendi che hanno colpito il Carso Goriziano nel 2022. Il progetto In For Safety, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia, vede la partecipazione di Go 2025 e del GECT firmatari di un protocollo d'intesa. L'obiettivo è rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e migliorare la gestione delle emergenze attraverso una collaborazione transfrontaliera sempre più efficace. Gorizia, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.38, diamo uno sguardo al tempo. Cielo sereno su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate alle 11. A Trieste 24,5 gradi, a Gorizia 26, Udine 25,5, a Pordenone 25, a Treviso 21, Tolmezzo 20, Forlì di Sopra 18,5 gradi, Piancavallo 17, Sappada 16. Sul Monte Lussardi e sul Monte Zoncolana 13 gradi, sulla costa Legnano 26 gradi e a Grado 24. Le previsioni dell'ARPA FVG per domani: al mattino su pianura e costa cielo poco nuvoloso, variabile sui monti, con la possibilità di qualche pioggia locale. Dal pomeriggio sui monti cielo in prevalenza nuvoloso, con temporali sparsi che verso sera potranno interessare anche la pianura. Sulla costa nel pomeriggio soffierà vento da sud a sud-ovest moderato, in tarda serata temporali potranno arrivare anche alla costa. Le varie esperienze di accoglienza e solidarietà messe a confronto nel seminario promosso dalla Rete Diritti Accoglienza e Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia al Centro Balducci di Zugliano. Tra i temi, quello del diritto alla casa. Ne parla Sara Rosso, responsabile accoglienza del Centro Balducci. I temi legati alla casa, le problematiche sono molteplici, infatti è un tema assolutamente da affrontare con un'impostazione multidisciplinare e con un'intersezionalità alta, proprio perché sempre più persone sono senza fissa dimora e il diritto umano all'abitare, all'abitazione e a un alloggio idoneo viene completamente disatteso. Qui oggi noi presentiamo 5 proposte, che in realtà sono degli inizi di proposte, proprio per allargare il dibattito pubblico. In prima battuta comunque giusto telegraficamente, si richiedono degli incentivi regionali per chi mette effettivamente i proprietari e le proprietarie che mettono a disposizione alloggi per le persone che non hanno dimora a vario titolo, e anche una mappatura a comuni e regioni proprio per conoscere l'esatto numero di immobili privati e immobili pubblici che non sono messi a disposizione e rimangono vuoti a fronte di tante persone per strada. Avete dei dati sul numero di persone senza casa? In realtà in questo momento no, infatti una delle proposte, ci sono diversi numeri, in realtà infatti una delle proposte è anche quella proprio di lavorare più a stretto contatto con i servizi sociali delle quattro ex province, proprio per arrivare al numero concreto e poter raffrontare, mettere a confronto a fronte di quante persone sono sulla strada a vario titolo, quanti immobili risultano ahimè vuoti, proprio per lanciare all'opinione pubblica un messaggio. A fronte di migliaia di immobili vuoti, ci sono migliaia di persone per strada. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo finalmente dare una risposta? Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Roseto del Parco Basali a Trieste accoglie la fiera Mercato BioEst, che quest'anno ospita anche il Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza Ironfest. Un appuntamento per dare il benvenuto all'estate e promuovere un modo di vivere e consumare in armonia con l'ambiente e il mondo. BioEst, l'annuale fiera triestina dedicata al mondo del biologico e dei prodotti naturali, delle associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato, ha aperto la sua 32esima edizione nell'ormai abituale location del Parco di San Giovanni, con oltre 40 associazioni presenti e quasi 150 stand, dal cibo ai prodotti per il corpo, dagli oggetti di arredamento ai vestiti. Che cosa si viene a cercare a una festa come BioEst? Cose biologiche e salutari. Tutto, soprattutto tutto quello che serve produzioni. Per cercare di stare un po' meglio. Ma anche per partecipare a degustazioni, sessioni di biocosmesi, spettacoli e animazioni sia per bambini che per adulti. Tiziana Cimolino dell'associazione BioEst. Quest'anno abbiamo degli shock cooking particolari sia sulla macrobiotica, che oggi si svolgerà come sabato, sia domani invece parleremo della cucina vegana. E abbiamo dei cuochi importanti, delle persone che ci faranno vedere come si può cucinare in salute. E ancora lezioni e appuntamenti dedicati alle neomamme e per la prima volta al Festival del Libro per la Pace e Ironfest, con conferenze e appuntamenti con autori e piccoli editori. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Parte a Udine la 28esima edizione delle feste d'estate al Parco di Sant'Osvaldo, che propone appuntamenti di cultura, impegno civile, riflessioni fino al 19 settembre. Si inizia stasera con Late Night with L'Acaverso, spettacolo di stand-up comedy e concerto al chiosco del parco, inizio alle 19.30. Si conclude a San Daniele del Friuli Congresso Nazionale di Cardiologia. Tra i molti argomenti affrontati si è discusso di medicina nello sport e dell'attività fisica in montagna e subacquea. Abbiamo intervistato il presidente del convegno, il cardiologo friulano Lucio Mos, per sapere se queste attività sono controindicate per chi ha avuto sofferenza al cuore. Non è la montagna in sé che fa male, l'altitudine che fa male, soprattutto alle nostre altezze, ma è quello che uno fa in montagna. Ad esempio, se uno è predisposto ad avere l'angina pectoris, se esiste anche l'angina pectoris da frigore, cioè l'esposizione al freddo provoca l'angina, è quindi il freddo eventualmente in montagna, non è l'altitudine in se stessa che fa male. Non va preclusa l'attività in montagna a soggetti che hanno anche una patologia. È da fare attenzione quello che fanno poi in montagna. E quindi il consiglio del medico in questi casi è che non c'è una regola, ma uno deve anche un po' sapersi regolare? Sì, deve sapersi regolare. Come deve evitare sforzi di tipo strenuo, soprattutto di tipo isometrico, alzare pesi, in pianura li deve evitare anche in montagna. E quindi la vacanza in montagna non è preclusa per il cardiopatico? Certamente alle nostre altezze non è preclusa la vacanza in montagna al cardiopatico, perché gli adattamenti che ha il nostro corpo sulle nostre altezze, sì, c'è una regolazione che avviene in tutti i soggetti. Più in generale, in questo congresso sono stati affrontati tanti argomenti. Sì, soprattutto il problema degli atleti sia in montagna che qua, ma anche delle immersioni, e poi su tutte queste nuove metodiche di ablazione che permettono di trattare le aritmie. Abbiamo visto dei casi di giocatori che giocano in Serie A che con l'ablazione hanno potuto riprendere tranquillamente la loro attività. Quanto riguarda l'attività subacquea, il pericolo più grande è quelli che vanno in apnea, perché l'apnea può causare la sincope. Se succede per terra si riprende subito, se succede in acqua può essere fatale. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Medioevo ritorna a vivere al Romance di Sonzo grazie alla rievocazione storica del periodo longobardo Romance Langobardorum, organizzata dal gruppo Invicti Lupi. È stato inaugurato anche il primo lotto del villaggio longobardo Invicta Luporum, che riproduce con fedeltà gli ambienti dell'epoca. A Matteo Grudina di Invicti Lupi abbiamo chiesto a cosa serve un villaggio longobardo. Il villaggio servirà per far conoscere la storia meglio alla popolazione di ogni fascia d'età. Noi ormai lavoriamo da 14 anni con un strumento della divulgazione storica chiamato Living History, la rievocazione storica, che non è semplicemente il vestirsi e andare in giro per i paesi, ma è il proporre la storia attraverso sperimentazione, ricerca, coinvolgimento attivo. È il creare un villaggio con reali capanne, edifici, tettoie e tutte le strutture che poteva avere un edificio del VI secolo. Sarà un'esperienza immersiva per la popolazione. È immersiva non nel senso che si andrà in un parco di divertimenti come magari un Gardeland o qualcos'altro, ma sarà proprio un camminare dentro gli edifici storici, dove saranno presenti dei rievocatori che avranno la capacità di spiegare e insegnare alla popolazione la vita comune di questi uomini e donne che ci hanno preceduto 1500 anni fa. Romance Langobardorum è una rievocazione storica che giunge alla 13ª edizione. È una rievocazione organizzata da Invicti Lupi, quindi totalmente da noi volontari che la curiamo dalla base, dalla progettazione, alla ricerca dei fondi, alla creazione della logistica e poi proprio gli spettacoli e la gestione dell'evento. È diventata così importante perché siamo riusciti negli anni a creare una grande rete di collaborazioni con moltissimi gruppi storici che curano il periodo alto medievale sia in Italia che in Europa. E quest'anno portiamo a Romance 25 gruppi storici che provengono da 13 nazionalità diverse da tutto il mondo, anche perché per la prima volta abbiamo anche un gruppo qua dall'Argentina, ovvero figli di immigrati italiani di diverse generazioni fa che studiano la nostra storia. Quindi Romance negli anni è diventata veramente la capitale longobarda della rievocazione storica nella 3 giorni di giugno che organizziamo da tanto tempo. Inaugurata in Legio la mostra Ricchezza, dilemma perenne, curata da Don Alessio Geretti, visitabile fino al 9 novembre, comprende 52 opere che vanno dal 400 alla prima metà del 900, 17 provenienti da collezioni private non aperte al pubblico. Raccontano in un arco di 500 anni il complesso rapporto dell'uomo con la ricchezza attraverso rappresentazioni dell'abbondanza, ma anche dello scandalo della povertà. Tra le più celebri c'è Il ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio, oltre ai dipinti di Rembrandt, Tiziano, Peter Bruegel il Vecchio, Lorenzo Lotto, il Tiepolo, Picasso e Guttuso. Tra le curiosità, i visitatori potranno vedere anche l'opera preparatoria di Pellizza da Volpedo, con al centro il quarto stato. A Spilimbergo è stata inaugurata poco fa la mostra I cassetti di Nane Zavagno, che raccoglie i disegni e i dipinti su carta realizzati dall'artista in 75 anni di attività. L'esposizione, curata dal figlio Antonio allo studio Zavagno, resterà aperta sia sabato che domenica. Abbiamo intervistato Zavagno e gli abbiamo chiesto che ruolo hanno avuto i disegni nell'opera di suo padre. Un ruolo fondamentale, nel senso che lui ha sempre accompagnato la realizzazione delle sue, diciamo così, grandi opere, le musive, gli allumini, le tele e le sculture, ha una produzione continua di disegno, di opere su carta, su qualsiasi pezzo di carta lui trovasse, cose che solitamente faceva poi la sera dopo cena. Di giorno si dedicava alle cose in grande, la sera passava ore a disegnare su carta, su residui di stracci anche, o su cartoni recuperati. Erano idee parallele o poi venivano sviluppate nelle sue altre opere? In alcuni casi erano idee a sé stanti proprio, che non avevano nulla a che fare con la realizzazione contestuale di altre cose. In altre situazioni erano dei progetti, per esempio nella fase delle sculture soprattutto. E la mostra che cosa mette in esposizione? Oltre 150 pezzi in 75 anni di attività. Alcuni disegni degli anni 40, i primi che sono stati recuperati, proprio le ultimissime produzioni che sono 4 dipinti di vasi di fiori, cose che lui non disegnava più, sono le ultime cose in assoluto che ha fatto. C'è un'evoluzione nel suo stile del disegno? No, si capisce benissimo l'impronta, anche per un profano credo che sia abbastanza facile ritrovare l'impronta. Chiaramente il giovanile ha certi atteggiamenti e certe cose, ma l'impronta è un po' un suo marchio, ecco. E cosa preferiva usare quando disegnava? China, matita, quale materiale? Ha avuto dei periodi lunghi con la china, dopodiché ha usato anche matita, molti disegni sono sviluppati, fra specialmente quelli dell'ultimo periodo, una tecnica di graffiato, quindi graffiava delle superfici verniciate e accompagnava l'uso dell'acrilico. Diciamo che lui, come ha fatto molto del suo lavoro, usava tutti i materiali che poteva. Sempre con la stessa creatività. Lui ha sempre sostenuto il rispetto della materia per la realizzazione di un'opera. Domani, dopo il giornale radio delle 8.30, va in onda la nostra rubrica Vita nei campi. Sentiamo quali temi saranno al centro della puntata. Vita nei campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura ai Magredi, la cosiddetta steppa friulana, con un progetto per recuperare modelli della tradizione e valorizzare i prati stabili. A seguire, In viaggio verso il mulino, con i suoi odori, suoni e sapori unici, con Angelo Floramo. Come testare il grado di compattamento di un terreno e perché è importante. E ancora assaggio radiofonico per il verduzzo friulano, dolce frutto dei colli orientali. Alla scoperta di un liquore unico e ricco di tradizione, il ratafià. Nello spazio dei fiori, le begonie, regine di balconi e giardini. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Stasera a Prata di Pordenone si terrà la prima giornata di Prata in Rosa, iniziativa che unisce musica e sport per promuovere la ricerca contro il cancro al seno. Si inizia con il progetto Musica per dare speranza, con il concerto delle bande in Piazza Maier alle 20.45. Domani alle 9.30 partirà la camminata Passo Libero, aperta a tutti, con due percorsi da 5 e 7 km. Il ricavato sarà devoluto alla Breast Unit del CRO di Aviano. E si apre la Sala Xenia della comunità greco-orientale di Trieste la mostra Riccardo Bossi, I colori della vita. In mostra una sessantina di oli dedicati alle vedute marine di Trieste e di Venezia alle 19. E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Il prossimo giornale radio alle 14.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.